Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Oggi si sente parlare spesso di crisi del cinema italiano. Il panorama offerto dai nostri film, infatti, viene spesso giudicato asfittico, grigio, privo di idee, incapace di coagulare intorno a sé il grande pubblico. Può essere. E invece è un dato di fatto che c'è stata per il nostro cinema una vera e propria età dell'oro. Un periodo florido in cui le sale delle principali città d'Italia venivano riempite sia dai capolavori dei grandi maestri, come Fellini o Antonioni, sia dal cinema di intrattenimento. Stiamo parlando degli anni 60. C'è un genere nel cinema italiano degli anni 60 che supera tutti gli altri in quanto a popolarità e gradimento del pubblico. Si tratta del western all'italiana, detto anche spaghetti western. La grande stagione del western all'italiana ufficialmente si apre nel 1964, anno in cui vede la luce Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Prima di quell'anno erano già stati prodotti diversi western nel nostro paese, ma nessuno aveva ancora riscosso il clamoroso successo del film di Leone e aveva letteralmente rovesciato i canoni di uno dei generi più antichi della storia del cinema. Al cuore, Ramon! Se vuoi uccidere un uomo, devi colpirlo al cuore! Sono parole tue, no? Il western americano classico fondava il proprio immaginario su alcuni elementi romantici ed eroici. Il mito della frontiera, la lotta tra il progresso e la tradizione, spesso rappresentata dall'avanzare della ferrovia. E poi buoni contro cattivi, cavalieri pallidi con speroni e cinturoni dal coraggio indomito e legati a un sistema di valori saldo e definito, spesso impegnati nella lotta contro efferati indiani pelle rossa. Il western all'italiana rovescia questa visione del mondo. Niente più eroi, solo cinici avventurieri che si muovono in terre desolate in cui il sole ha ormai arso ogni cosa, compreso qualsiasi barlume di moralità. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Tra il 1964 e il 1974 vengono girati quasi 500 western, anche se riuscire a fare un censimento attendibile al 100% è quasi impossibile. La stragrande maggioranza di questi sono scritti e diretti da italiani. Non tutti questi film sono dei prodotti eccellenti, ma escono nelle sale al momento giusto e riescono più o meno tutti ad avere un discreto consenso da parte del pubblico. La storia che vi raccontiamo oggi ha decisamente a che fare con il western all'italiana. Anzi, parte proprio dal set di uno di questi film un po' sgangherati e dalla produzione eroica e artigianale. Si intitola Dio perdona, io no. Un film a basso budget girato in Spagna nel 1967 in una zona semidesertica a pochi chilometri fuori da Madrid. Il regista del film si chiama Giuseppe Colizzi, scrittore romano alla sua opera prima, che decide di passare dietro la macchina da presa per saldare un debito contratto con un produttore di Cinecittà. Colizzi è uno dei tanti buoni mestieranti del cinema italiano degli anni 60, giovane, svelto, pratico. È in grado di dirigere un prodotto ben confezionato e solido, infilandoci anche qualche ambizione artistica. Dato il successo di Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, Colizzi concepisce un western a tre personaggi, in cui però ci infila la sua passione per lo scrittore greco Esopo. I tre personaggi principali avranno caratteristiche fisiche e caratteriali di tre animali: la volpe, il gatto e il cane. Per la parte della volpe, e cioè il bandito Bill Sant'Antonio, Colizzi sceglie Frank Wolf. Gli fa tingere i capelli di rosso per renderlo simile all'animale e lo spinge verso una recitazione diabolica e luciferina. È un cattivo perfetto per il film. Per la parte del gatto, un pistolero svelto e furbo, Colizzi opta invece per Peter Martel, pseudonimo dietro il quale si cela l'attore Pietro Martellanz. È risaputo infatti che nella stagione del western all'italiana quasi tutti gli attori e buona parte dei tecnici erano soliti celare il proprio nome dietro uno pseudonimo inglese. Molto più complessa è la scelta della figura del cane. un personaggio grosso, impacciato e irascibile. Si dice che la moglie del regista, Silvana Mangini, avesse visto in un film di qualche anno prima, Siluri umani, un film di guerra con Raff Vallone e Aldo Fabrizi, un giovane ex campione di nuoto che se la cavava piuttosto bene come comparsa in un piccolo ruolo molto simile a quello che il marito andava cercando. Quel nuotatore si chiama Carlo Pedersoli. Colizzi, dopo aver visto qualche foto di quel colossale atleta, non esita a contattarlo. Colizzi chiama a casa Pedersoli. Risponde la moglie. Senta, suo marito è ancora grosso come quando nuotava? Chiede il regista. Molto di più, risponde la moglie. Perché ora non fa più nulla e mangia e basta. Colizzi è entusiasta e due giorni dopo incontra Pedersoli a Roma. Pedersoli chiede a Colizzi 4 milioni di lire per recitare nel suo film, perché è l'importo esatto di una cambiale che deve pagare. Colizzi prima rifiuta, proponendogliene uno. Poi ci ripensa. Quella figura imponente è proprio quello che sta cercando. Lo scrittura e gli chiede di trovarsi un nome americano. Pedersoli ci pensa un po' e poi fonda la sua passione per una nota birra con il suo amore per Spencer Tracy. Da questa strana combinazione nasce Bud Spencer. Bud Spencer. Bud Spencer, quindi, nasce nel 1967 dall'incrocio di una birra e di Spencer Tracy. Carlo Pedersoli nasce invece a Napoli il 31 ottobre 1929. La sua è una famiglia discretamente benestante. Il padre è un uomo d'affari costretto a frequenti spostamenti per lavoro. Così la famiglia Pedersoli fa tappa prima a Roma e poi in Sud America, a Rio de Janeiro, a Buenos Aires, a Montevideo. In tutto questo Carlo termina il liceo con ottimi risultati, addirittura con un anno d'anticipo, e si iscrive all'università, nella facoltà di chimica, poi abbandonata a causa degli spostamenti. L'ambito in cui il futuro Bud Spencer ottiene i risultati più consistenti è quello sportivo. Per il nuoto, infatti, Pedersoli sembra avere un talento esplosivo e naturale. Quando a 19 anni la sua famiglia fa ritorno dal Sud America, diventa subito campione italiano di nuoto a rana. È solo il primo di una serie di successi. Per 10 anni Carlo Pedersoli detiene il titolo italiano dei 100 metri stile libero. Oltre a ciò, diventa nazionale italiano di pallanuoto e con la squadra italiana partecipa alle Olimpiadi del 1952 e del 1956. Nel frattempo si iscrive di nuovo all'università, questa volta a giurisprudenza, ma deve nuovamente abbandonare per l'intensità degli allenamenti. E a legge sono venute le Olimpiadi, che mi hanno determinato, 52-56, allenamenti che o studiavo o facevo le Olimpiadi. Ho detto di avvocati ce ne sono 70.000, o 700.000 o 7 milioni, olimpionici ce ne sono pochi. Faccio la prima Olimpiadi, senza pensare che avrei fatto anche la seconda. Poi è venuta pure la seconda e non è finito niente. Ho dato quasi parecchi esami di legge. La vita d'atleta è ricca di soddisfazioni e successi. Nella pallanuoto arriva il titolo europeo nel 1954. Dopo le Olimpiadi con altri promettenti atleti, viene invitato alla Yale University. Passa alcuni mesi negli Stati Uniti e poi alle Olimpiadi di Melbourne raggiunge un rispettabile 11° posto. Dato il fisico imponente, viene scritturato per fare qualche comparsa nel mondo del cinema. Va da produzioni hollywoodiane realizzate a Cinecittà come Quo Vadis ai Siluri umani. Niente di serio, quel mondo per il momento non lo attrae. Quando poi è all'apice della carriera agonistica, l'uomo che diventerà Bud Spencer decide improvvisamente di cambiare vita. Ma c'è di peggio nella mia vita. Io quando ho smesso di fare le Olimpiadi, l'ultima Olimpiade l'ho fatta nel 1956 a Melbourne in Australia, ho vinto un campionato italiano nel 1957 e poi ho deciso una fase della mia vita che secondo me era molto importante. Ero campione da 7-8 anni, 9 anni. Ero cresciuto nella bambagia con donne quante ne volevo, automobili, mamma che mi metteva stirati i pantaloni e la camicia. In quel momento non sapevo chi ero. E non sapendo chi ero ho deciso di andare via, di andare a lasciare le mie compagnie, la vita di Roma. E sono andato in Venezuela, che era un posto dove non ero stato precedentemente, perché ero stato con la famiglia sia in Brasile che in Argentina, ma sempre con mio padre, mia madre e mia sorella. Lì sono andato da solo e da solo mi hanno sbattuto in piena giungla amazzonica a fare strade con una compagnia che faceva strade, impiegato, normale. Carlo Pedersoli rivoluziona tutto il suo mondo e le sue priorità. Lavora per 9 mesi in quella impresa americana intenta in quel periodo a costruire la strada che lega Panama a Buenos Aires, diventata poi famosa col nome di Panamericana. Dopo questa esperienza lascia e trova un altro lavoro per una ditta automobilistica di Caracas fino al 1960. Agli inizi degli anni 60 il futuro attore, cambiato e trasformato, ritorna a Roma. E quella è stata la fase più importante della mia vita. Perché avendo capito chi ero, ho deciso tante cose che forse non avrei mai capito e mai fatto. E da lì viene fuori anche il desiderio di diventare pilota, il desiderio di fare tante cose che ho fatto. Tornato a Roma, sposa Maria Amato, di 6 anni più giovane, conosciuta 15 anni prima. Il padre di Maria è uno dei più affermati produttori cinematografici italiani. Il cinema bussa una seconda volta alla porta del futuro Bud Spencer e per la seconda volta l'ex campione di nuoto non si mostra interessato. A sorpresa, invece, firma un contratto con la casa musicale RCA e compone canzoni per cantanti italiani come Ornella Vanoni, Nico Fidenco, per il quale scrive il pezzo Cleopatra. Cleopatra, tu nostro amore, questo grande amore, e così sentirai e vedrai una luce nascere. Pedersoli in questo periodo scrive anche qualche colonna sonora. L'anno dopo nasce Giuseppe, il primo figlio, mentre nel 62 è la volta di Cristiana, la secondogenita. 2 anni dopo, però, scade il contratto con la RCA e muore il suocero. Carlo è così costretto a buttarsi negli affari. Produce documentari per la Rai, ma si ritrova con qualche debito di troppo. Quando il cinema lo chiama per la terza volta, nel 1967, nella persona del regista Giuseppe Colizzi, dopo qualche esitazione, accetta. Pensa che rimarrà un'esperienza isolata, che celerà sotto lo pseudonimo di Bud Spencer. La sorte, invece, ha preparato per lui altri programmi. Le riprese di Dio perdona, io no iniziano nei primi mesi del 1967 con 3 attori protagonisti, Frank Wolf, Peter Martel e Bud Spencer. Dopo 4 giorni però capita un imprevisto singolare che richiede un cambiamento nel cast. Peter Martel litiga con la sua fidanzata e fin qui non ci sarebbe nulla di problematico. Solo che al culmine della collera l'attore ha la bella pensata di sferrare un calcio alla sua giovane compagna. Questa si scansa e il piede di martellanza colpisce il muro. Risultato: frattura del malleolo. Il giorno dopo l'attore si presenta sul set con tanto di gesso e stampelle, non proprio un look da cowboy. Colizzi prende il primo aereo per Roma e cerca subito un sostituto. A Cinecittà, Giuseppe Colizzi visiona in tutta fretta una serie di attori. La sua attenzione viene catturata immediatamente da un ragazzo biondo che ha una forte somiglianza con Franco Nero, attore italiano che aveva già interpretato diversi western all'italiana. Il suo nome è Mario Girotti. Ha 28 anni, ma vanta già piccole apparizioni in film importanti come Il Gattopardo di Luchino Visconti, film nel quale interpretava il conte milanese Cavriaghi. La scelta ricade su di lui, che viene immediatamente imbarcato su un aereo per Madrid. Il cast di Dio perdona, io no vede quindi entrare Mario Girotti al posto di Peter Martel. Anche a Girotti viene chiesto di trovarsi un nome americano che farà coppia con quello di Bud Spencer sul cartellone del film. Il produttore gliene consegna 20 tra cui scegliere e 24 ore di tempo per decidere. Girotti ne cerca uno con le iniziali della madre tedesca, Hildegard Thieme, T e H, e lo trova. Gli sconosciuti protagonisti del film Dio perdona, io no sono quindi Bud Spencer e Terence Hill. Terence Hill. I realize I'm Destini incrociati. Bud Spencer e Terence Hill, una delle coppie d'oro del cinema italiano. Oggi vi stiamo raccontando la storia del loro incontro artistico e la nascita del loro sodalizio. Un incrocio il loro, in cui il destino ci mette molto del suo. Hill viene chiamato per caso sul set del western Dio perdona, io no, per sostituire un attore che si era rotto un piede cercando di colpire con un calcio la sua fidanzata, come ricordano gli stessi Terence Hill e Bud Spencer. Noi ci siamo incontrati la prima volta sul set, perché io di corsa venni dall'Italia a sostituire questo altro attore che si era rotto il piede, e ci incontrammo sul set, mi mise il costume là, lui stava lì, ah ciao, basta, insomma fu così questo incontro, che però da quel momento andò crescendo. Perché doveva fare il ruolo di Terence, lo doveva fare Peter Martel. In italiano attore. Si chiama Pietro? Peter Martel Lanz. Esatto, Pietro Martel Lanz si chiamava. Però si fece male la notte prima di cominciare a lavorare e Colizzi, il regista, venne a Roma e prese Mario, che si chiamava Mario Girotti, che poi è diventato Terence Hill. In realtà Terence Hill conosceva già Spencer per la sua carriera di nuotatore. Lo aveva anche incontrato anni prima in una piscina di Roma. In realtà io non ci avevo mai conosciuti, ma lui era il mio idolo, perché io a 12 anni ammiravo, nuotavo nella Lazio, ho fatto anche delle gare di rana, mentre lui era grande campione italiano. Di rana, stile rana. Stile rana. No, sì. Non mangiare le rane. Non mangiare le rane. No, e io ammiravo Bud Spencer che si allenava, sì. Che in realtà, devo dire, non è che si allenava tanto, perché aspettavo di vederlo, lui entrava in acqua, si buttava un po', si bagnava un po' e riusciva. Sì. Terence Hill, all'anagrafe Mario Girotti, nasce a Venezia il 29 marzo 1939 da madre tedesca. Per questo motivo trascorre l'infanzia in Sassonia, Dresda, sotto i tremendi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo avvengono per puro caso. Ancora giovanissimo, durante una gara di nuoto, viene notato dal regista Dino Risi, che lo scrittura per una parte nel film Vacanze con il gangster del 1951. Si appassiona al teatro e alla recitazione e nel frattempo si iscrive a lettere classiche a Roma. Dopo 3 anni abbandona l'università per inseguire definitivamente la carriera di attore, frequentando anche l'Actor Studio a Roma per cercare di superare una timidezza di fondo che sembra rallentarlo nei progressi. La scelta si rivela vincente, tanto che Visconti lo sceglie per la parte di Cavriaghi nel Gattopardo. Il film della svolta, in ogni caso, per Terence Hill è Dio perdona, io no. In primo luogo per il successo clamoroso che il film ottiene. Secondariamente perché sul set del film conosce la sua futura moglie, Lori Zwickelbauer. Infine, per l'incontro artisticamente più importante, quello con Bud Spencer. Dio perdona, io no fu veramente la radice della nostra coppia. Tanto è vero che, per esempio, questo è un dettaglio piccolo, ci fu una bellissima prima scazzottata che il pubblico piacque molto tra me e Bud Spencer. Il film di Colizzi determina in maniera molto precisa le caratteristiche dei due personaggi che gli attori andranno a sviluppare e consolidare anche nei film successivi. Da un lato Hill, veloce, scaltro, rapido, soprattutto con le armi. Diciamo, una caratteristica gestuale mia fu la velocità con la pistola. Quando vuoi, avvisa. Dall'altro lato Spencer, enorme, buono, un po' tonto. Beh, mi somiglia tutto. La cosa che determinava in me la certezza è che il pubblico mi voleva poco intelligente, ma molto buono. Questo fatto, ossia che il pubblico capiva prima di me quello che io avrei fatto, è stata la determinazione di un personaggio vincente. Insomma, i due si scoprono subito complementari e affiatati. Sul set si crea una fortissima alchimia e una profonda amicizia, ingredienti fondamentali per quella che diventerà una delle coppie d'oro del cinema italiano. Il vero amore. Il primo western che Terence Hill e Bud Spencer girano in coppia, il loro esordio assoluto, Dio perdona, io no, esce nelle sale nell'autunno del 1967. Il film ottiene un successo insperato. Il pubblico sembra gradire in particolar modo le scene in cui i due compaiono insieme sullo schermo. Dio perdona, io no, uscì Colizzi e ebbe questo successo che non si capì come mai, anche perché a quell'epoca il western italiano stava finendo quello violento, questo già cominciava a essere ironico, andò in giro per l'Italia e quello era un film a tre personaggi, il gatto, il cane e la volpe. E Dio dice, ma sai che ho scoperto? Che quando voi due state insieme sullo schermo, il pubblico si diverte di più. E quindi non sapevamo, neanche lui sapevamo che facevamo una coppia. La coppia è nata piano piano, quando il pubblico ci ha detto, ci piace vedervi insieme. In particolare il pubblico sembra apprezzare tantissimo la scena del film in cui per la prima volta Bud Spencer usa il suo pugno a martello, una mossa che diventerà quasi proverbiale. Come gatto stavo sull'albero, lui non mi trovava e saltavo giù dall'albero e lo graffiavo con i miei speroni. Vieni giù, eccomi! Lui si rigirava e non mi vedeva mai, io ero sempre imprendibile. E lui poteva darmi solo un pugno per farmi fuori, e effettivamente se prendevo un pugno da lui mi faceva fuori. E dice, come glielo do questo pugno? E ci fu un attimino di discussione, che è una cosa importante, e lui va, viene fuori con questa idea. Dice, ti do un pugno dall'alto in basso, così ti prendo qua e tu finisci, oppure in testa così. Quindi questo pugno a martello lo inventò Bud Spencer, che poi sembra una sciocchezza, ma in realtà fu una caratteristica gestuale di Bud Spencer, che è stato un grosso contributo al successo dei nostri film, perché la gente non vedeva allora che lui usasse quest'arma. Dopo il successo di Dio perdona, io no, i due girano altri western all'italiana. Altri due sono diretti da Colizzi e vedono nuovamente protagonisti i personaggi del gatto e del cane. Si intitolano La collina degli stivali e I quattro dell'Ave Maria. Bud Spencer racconta un divertente aneddoto tratto proprio da quest'ultimo film a proposito di un cavallo. Vabbè, il cavallo si chiamava il Cordovès, questo cavallo. Ed era tutto il giorno, ha cercato di risarcionarmi, quindi di buttarmi per terra, perché non reggeva il peso mio sopra, non andava bene. Allora la mattina dopo, appena ho messo il piede nella staffa, lui si è girato, ma guardate, si è buttato per terra. Il successo più importante della coppia, però, arriva nel 1970 e lo chiamavano Trinità, diretto da Enzo Barboni sotto lo pseudonimo di E.B. Clutcher. Ormai diventato un classico del cinema italiano, un cocktail perfetto di western, botte e comicità. Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? E quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia, ma è la verità. Sì, ma non è vecchia. Anche per Lo chiamavano Trinità, Hill non è la prima scelta del regista. Il protagonista avrebbe dovuto essere Franco Nero, poi ritiratosi a causa di un precedente impegno. Hill, anche per la somiglianza con Nero, lo rimpiazza, andando a ricostruire la coppia con Spencer. I due sono fratelli pistoleri, al solito antitetici, alle prese con la banda di un terribile malvivente in uno sperduto villaggio del West. Chi è quella gente? Sono gli agricoltori. Com'è che sono disarmati? Fa parte della loro religione, non concepiscono la violenza. O qualcosa del genere. E come se la cavano col maggiore? Con qualche preghiera e le ossa rotte. Salve, fratelli! Salve! Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io? Chi lo conosce? È il Signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Sia lodato Gesù Cristo. Perché? Il successo di pubblico del film è clamoroso, tanto che un anno dopo uscirà il seguito e continuavano a chiamarlo Trinità. Per il film viene coniata una nuova espressione, fagioli western, in omaggio alla celebre scena della scorpacciata di fagioli di Hill, per girare la quale l'attore aveva digiunato 2 giorni. I critici dell'epoca non apprezzano granché. Molti di loro trovano il film rozzo e volgare. Come spesso accade, ci penserà una tardiva opera di riabilitazione in tempi recentissimi a sistemare le cose. In ogni caso, dopo i due Trinità, la coppia di attori esce più forte che mai, con un vasto pubblico di sostenitori pronti a vedere ogni loro film. Ne totalizzeranno insieme 17, ad accompagnare un rapporto di amicizia che non verrà mai meno, negli alti e bassi lavorativi e nei momenti meno felici delle loro vite personali. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi abbiamo raccontato la storia dell'incontro tra Bud Spencer e Terence Hill sul set di Dio perdona io no nel 1967. Un incontro casuale e fortuito che regala al cinema italiano una coppia d'oro in grado di sbancare al botteghino e di entusiasmare spettatori di ogni età. I due, tra il 1967 e il 1994, girano insieme ben 16 film. Fra i primi successi ben 5 sono western all'italiana. Poi arrivano altre memorabili performance come Altrimenti ci arrabbiamo, del 1974. Ecco, qui c'è scritto dove sta la mia officina. La rivogliamo tale e quale com'era. Una dune buggy fresca di fabbrica. Sarebbe un gesto gentile mandarcela a casa. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno. Altrimenti? Eh? Altrimenti? Altrimenti? Altrimenti ci arrabbiamo. Ecco, ci arrabbiamo. Altrimenti ci arrabbiamo viene ricordato dai numerosissimi fan della coppia anche per l'esilarante coro dei pompieri che vede coinvolto Bud Spencer come improbabile corista. Un, due, tre, quattro. Dopo film cresce il numero di fedelissimi spettatori che anche all'estero seguono da vicino le peripezie di Bud Spencer e Terence Hill. I due però non sembrano curarsi molto dei pareri poco favorevoli dei critici e proseguono imperterriti la loro straordinaria carriera. La forza numero uno di questo successo è l'alchimia della coppia. Perché intanto la nostra comicità è una comicità gestuale. Noi abbiamo estratto dal muto la gestualità della comicità. Charlot, Chaplin, San Lavoro Liberardi, Buster Keaton facevano ridere per quello che succedeva. E noi abbiamo seguito un po' questa via. Bud Spencer e Terence Hill sono anche molto amici fuori dalla finzione del grande schermo. Uno dei segreti della loro duratura amicizia risiede probabilmente nel fatto che entrambi portano avanti anche brillanti carriere da soli. Una scelta che permette loro di sperimentare con esperienze artistiche differenti e importanti. Da questo punto di vista, la carriera di Terence Hill è sicuramente più significativa di quella di Bud, che spiega il motivo con una semplicissima ed umile battuta. Lui è un attore e io sono un personaggio. Hill negli anni 70 recita anche in alcune produzioni hollywoodiane. In March or Die con Gene Hackman e Catherine Deneuve è Marco Segrain, uno scassinatore senza fissa dimora che sta scappando dalla polizia e che per evitare l'arresto decide di arruolarsi nella legione straniera. In Mister Miliardo interpreta il ruolo di un meccanico al quale lo zio americano lascia in eredità $1 miliardo. Film che ottengono un buon riscontro al botteghino e fanno di Terence Hill uno degli attori italiani più famosi all'estero. Americano. mentre l'amico Terence Hill si costruisce una brillante carriera anche da solo, Spencer, che è sempre stato un uomo poliedrico, trova modo di realizzare alcuni suoi grandi sogni anche fuori dallo schermo. Uno di questi prende corpo su un set di un film girato insieme a Terence Hill, Più forte ragazzi. In una scena di questo film, Spencer deve pilotare un aereo. Nei primi ciak di questa scena, al momento del decollo, Bud lascia la cloche a un pilota che gli fa da controfigura. All'ultimo ciak, le cose vanno diversamente. In Più forte ragazzi io non avevo nessun brevetto e avevo 45 anni, quindi non avevo mai pensato, cioè voluto mai, pensato di fare il pilota, sì, mi sarebbe piaciuto molto. Poi il fatto di stare su un aereo in quel film, dove c'era una scena dove io rullavo con l'aereo, la macchina da presa mi seguiva e poi montava un pilota vero, si metteva la parrucca con me di spalle, non si vedeva e andava a volare, ha determinato in me una voglia tremenda che quasi il produttore si suicida, perché una mattina sono decollato da solo senza avere nessun brevetto in questo aeroporto abbandonato. E allora il produttore ha detto, vabbè, è finita, questo adesso si ammazza. Invece non mi sono ammazzato, ho preso 4-5 quaglie e da lì ho cominciato. E poi io ho preso il brevetto sia in America che in Italia. Dopo aver preso il brevetto, Bud Spencer effettua anche una lunghissima trasvolata dal Kansas a Roma, sopra i ghiacci del Polo Nord, insieme a un amico, su un biplano. Un'impresa straordinaria. Un altro pallino di Bud Spencer è la laurea. Ci ha già provato due volte, ma per ragioni sportive ha dovuto mollare. A 45 anni suonati decide di riprovarci per una sorta di scommessa con la figlia Cristiana. A 45 anni con una figlia di 20 o di 19, adesso non mi ricordo Cristiana quanto c'era, la vedevo svogliata, studiava sociologia. E allora la sera quei libri lì a spiegargli che sai, i libri di sociologia hanno dei linguaggi un po' particolari, delle volte non si capiscono, eccetera. E una sera gli ho detto, vuoi vedere che si laurea prima tuo padre di te? Avevo fatto la scommessa e mi sono iscritto alla Sapienza di Roma, dove ho dato 3 esami, però lei ha finito, io no. Tutti i 3 esami sono stati 30 lode, per oltre a parentesi. Ce l'ho ancora, non so se sta qua o dove, ma è interessante però. Che si presentava sto giorgiolone di 140 kg che ero, già ero Bud Spencer, in mezzo ai professori lì tutti quanti, e dico, ma che fa questo qua? Con gli anni il sodalizio artistico tra Spencer e Hill si allenta. Non l'amicizia, però, che si rinsalda proprio quando per Hill arriva uno dei momenti più tristi della sua vita. Il 15 gennaio 1990 suo figlio Ross muore a 17 anni in un incidente stradale a Stockbridge, nel Massachusetts. 3 anni prima aveva recitato insieme al padre nel film Renegade e Terence sperava che potesse seguire le sue orme. Per lui è un colpo durissimo che determina uno stato di profonda depressione, da cui riesce progressivamente a uscire grazie alla fede, al suo lavoro e alle parole di un amico, Bud Spencer. Ciao Terence Hill, siamo l'unica coppia al mondo che non ha mai litigato. A Pasqua siamo chiamati e mi ha detto che voleva venire a mangiare gli spaghetti a casa mia, perché lui lo tengo a stecchetto. Abbiamo una specie di rito, sì, certo. Perché la moglie di Bud Spencer, Maria, fa degli spaghetti al pomodoro e basilico, i più buoni per me che esistano. E allora ogni tanto vengo invitato a cena e voglio solo questi spaghetti, perché sì. In realtà Bud e come me abbiamo gusti molto semplici. Quindi lui, spaghetti, sì, olio, pomodoro e basilico. Proprio quest'anno, nel 2010, il cinema italiano ha dato un riconoscimento importante ai due. Il David di Donatello alla carriera. Il David speciale alla carriera. Il primo riguarda due attori che hanno divertito generazioni e generazioni di spettatori. I due attori, contenti e commossi, ricevono il David alla carriera insieme a una lettera scritta loro da Ermanno Olmi, grande regista italiano, che nel 2003 aveva voluto Bud Spencer nel suo Cantando dietro ai paraventi. Olmi, in quella lettera che Tullio Solenghi, presentatore della serata, legge a Bud Spencer e Terence Hill, fotografa in maniera impeccabile tutta la carriera di una delle più grandi coppie del cinema italiano. Cari Bud Spencer e Terence Hill, è da un bel po' di tempo che ho in mente di scrivervi una lettera di scuse. Quando ero giovanotto, tanti anni fa, mi volevo convincere che il cinema doveva essere soprattutto quello che già allora veniva classificato con asterischi e palline, distinguendo tra cinema di qualità, una sciocca definizione, e l'altro cinema cosiddetto di consumo, che mi pare stupidamente presuntuoso. Adesso, giunto a quell'età dove si posso stare quietamente sulla sponda del buon senso, mi sono fatto l'idea che a salvare il mondo non sarà soltanto la cultura e neppure la bellezza, che pure è una piacevolissima opportunità, ma che potremo davvero scampare al declino di civiltà se sapremo praticare la strada maestra della gioia. Gioia come condivisione di sentimenti di pace, poiché una bella, raffinata e onesta risata è anch'essa a pieno titolo opera d'arte, che fa bene allo spirito e alla cultura e anche alla salute. Sono felice di vedere assegnare il Davide di Donatello alla carriera 2010 a Bud Spencer e Terence Hill, magnifici attori e amabilissimi galantuomini, indimenticabili eroi di tante fantastiche avventure, di giocosa ironia e sano divertimento. Resteranno sempre nel nostro affetto e nella storia di un cinema di qualità senza asterischi. Ermanno Olmi. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.